Smart City, la città intelligente. Buonasera a tutti, buonasera anche alla nostra Chiara Albicocco. Buonasera. Buonasera Chiara, che è qui con me stasera per continuare il discorso che avevamo iniziato ieri sera, parlando di GIT, cioè gestione intersettoriale dei territori. È una piattaforma software che consente, diciamo così, di concentrare, di confrontare tutti quei dati che sono anche molto diversificati e che oggi le pubbliche amministrazioni locali devono gestire. Questa sera però, Chiara, dopo averne parlato un po' in generale, ieri sera andiamo su un caso specifico. Ieri abbiamo fatto un po' la parte introduttiva di quello che rappresenta questo progetto. Oggi andiamo nel comune di Vicenza con l'assessore alla semplificazione e all'innovazione. Buonasera Filippo Zanetti. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, il vostro comune è uno di quelli che utilizza questo GIT, lo sappiamo, l'abbiamo detto ieri, sono circa 200 e qualcosa i comuni su 8.000 comuni italiani che utilizzano questa piattaforma. Voi come l'avete utilizzato? Contro, come dire, l'evasione contributiva? Sì, esattamente, attualmente lo utilizziamo essenzialmente per appunto fare recupero fiscale. Mica male. No, non è male, funziona molto bene, riusciamo a fare delle segnalazioni molto qualificate, diciamo che il 95% delle nostre segnalazioni va a buon fine e l'incrocio di banche dati appunto ci permette di recuperare anche un bel po' di evasione fiscale. Zanetti, ci fa un esempio, perché l'avete utilizzato ed è stato efficace? Sì, guardi, l'esempio, io faccio sempre l'esempio di quando è nato questo GIT, che noi abbiamo accrociato la banca dati più semplice, può sembrare più banale del comune, che è quella delle liste delle persone che sono autorizzate ad andare a ritirare i bambini alla scuola materna, e quindi siccome ce ne vogliono delle deleghe abbiamo scoperto che c'erano dei ragazzi che avevano un nome straniero delegato, e siccome questi ragazzi sono residenti a Vicenza e vivono a Vicenza, i genitori sono vicentini, evidentemente questa persona era una badante, una donna di servizio, e quindi abbiamo visto il reddito e questo ragazzo usufruiva in realtà degli sconti comunali e quindi dell'esenzione della rete della mensa. Ci siamo posti qualche domanda, però si possono... Com'è che uno la governante contemporaneamente però chiede lo sconto alla mensa? Alla mensa abbiamo incrociato, allora era un artigiano, faceva l'idraulico, abbiamo scoperto che era proprietario di appartamenti, che era proprietario di automobili, che quindi aveva un reddito in realtà presunto ben più alto di quello che dichiarava. Che dichiarava però un reddito minimo appunto per avere l'esenzione dalla mensa. E dichiarava un reddito sotto i nostri limiti ISE per poter avere l'esenzione dalla mensa. E lì che cosa succede? Come si muove il comune? Allora, il comune prende, fa una segnalazione all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, e lì la Guardia di Finanza prende, va a fare gli accertamenti, quindi nel caso venga certificata un'evasione emettono una sanzione, quindi provvedono al recupero fiscale. Ed è vero che questi soldi che voi recuperate rimangono al comune in qualche modo? Esatto, questi soldi rimangono al comune, per questo che gli enti locali sono stimolati a fare lotta all'evasione tanto quanto. Ecco, perché qua viene fuori la domanda, noi ci chiedevamo, ma quando mai un amministratore locale, come dire, ha voglia di mettersi a fare il cane da guardia del fisco? È una roba che di solito non è che porti molti consensi, invece una motivazione forte c'è, i soldi restano nelle tasche dei comuni almeno una volta tanto, insomma. Sì, esatto, no, siccome i comuni devono fare anche desattore per conto dello Stato e quindi noi ci mettevamo la faccia per lo Stato si teneva i quattrini, esatto. Questa volta se non altro ecco recuperiamo, anche se è molto brutto dover fare i cani da guardia. Certo, non è certo, bello, certo. Ecco, oltre a questo elemento finanziario, economico non banale, quali sono altre motivazioni per cui invece è opportuno magari che gli enti locali facciano questo tipo di lavoro? Secondo me un po' ci ha risposto con l'esempio di prima. No, poi sì, penso ad esempio ai servizi erogati dal vostro comune, appunto, che probabilmente dipendono molto spesso dal CETO, e quindi a quel punto se tutti si dichiarano nulla tenenti o comunque sulla soglia di povertà è certo che il comune non ci guadagna molto. È proprio esattamente questo il motivo, anche si pensa all'esenzione delle mense, alla rete degli asili, ai diversi anche aliquote di addizionale IRPEF o di tasse, certo, sul prima casa, certo. Adesso non sapremo come saranno configurate queste nuove tasse che stanno arrivando, ma noi cerchiamo sempre di differenziare in base al reddito anche dei servizi, quindi è chiaro che noi siamo i primi a essere interessati a dover erogare. Sì, e questa componente poi odiosa dell'evasione fiscale, che oltre, diciamo, a non pagare le tasse, uno poi beneficia anche di servizi sottraendoli di solito qualcun altro. Senta, le chiedo un'ultima cosa, sì, vorrei capire se con questa piattaforma avete altre cose che intendete fare, insomma. Sì, perché la piattaforma è uno strumento non solo per riscuotere riscuotere denaro. No, infatti, no, è uno strumento importantissimo, può permettere anche di erogare servizi anche online ai cittadini, professionisti e alle imprese, a fargli risparmiare un sacco di tempo e soldi, insomma, per ottenere le informazioni. C'è un principio in più che volevo dire: in realtà questa piattaforma software può essere facilmente esportata e installata anche in altri comuni. Certo. Noi come Vicenza adesso stiamo andando a Marsala, abbiamo fatto un gemellaggio, e quindi il principio del riuso del software nella pubblica amministrazione non è mai sufficientemente applicato come dovrebbe. E noi lo ripetiamo spesso in questa trasmissione. Grazie Filippo Zanetti. Grazie a voi, buona continuazione. Buona serata. Appuntamento a domani.